È mercoledì 26 marzo, i titoli, il Sole 24 Ore apre su stipendi pubblici la mappa dei privilegi, e c'è proprio questa mappa che poi vedremo con tutti gli stipendi. Il Corriere della Sera invece, la battaglia delle province, titolo di prima pagina, e qui ci sarà subito da aprire il capitolo su che fare, contare o non continuare a contare la questione delle settimane decisive per l'abolizione delle province. Io ho preso una decisione e tra poco la comunicherò. Province, il governo rischia e Renzi pensa alla fiducia, così è il titolo di apertura della Stampa, mentre il Messaggero, statali via ai pensionamenti. Per il secolo XIX statali via dal lavoro prima. Queste sono le dichiarazioni del ministro Madia, che hanno suscitato subito un vespaio di polemiche, cioè prepensionare nella pubblica amministrazione per dar spazio ai giovani. Libero, cocchi di governo, i baby pensionati e i milionari. Alla faccia delle vittime della Fornero, il ministro Madia vuol mettere a riposo anticipato migliaia di statali per assumerne altri più giovani. Risultato, scrive Libero, un buco nei conti e la prova che i lavoratori non sono tutti uguali. Poi il Premier potrà revocare i ministri, questo è il titolo di apertura di Repubblica, è il fronte comune Renzi Forza Italia per la modifica costituzionale, è una notizia che Repubblica mette in prima pagina. Il giornale, Tremonti vuota il sacco, il memoriale dell'ex ministro contro l'euro. Per l'unità Obama mobilita la NATO, mentre il Fatto Quotidiano apre su una vicenda che sta infiammando la polemica all'interno delle scuole italiane. Bagnasco ordina al ministro via quel libretto da scuola. Il presidente dei Vescovi ha chiesto ai politici di mettere al bando nuovi libri di testo per le elementari e le medie voluti dai governi Monti e Letta per combattere l'omofobia, perché la questione, scrive il Fatto, è la questione di genere. E vedremo anche questo se c'è tempo in rassegna stampa. Prima, mi raccomando, se siete in macchina tenete bene strette le mani sul volante nell'apprendere che forse avete appena preso una multa, forse la state per prendere, forse la prenderete, forse no, forse la dovete pagare o l'avete appena pagata. Sappiate che, come racconta la stampa pagina 19, avete le mani ben strette sul volante. Incassavano i soldi delle multe in manette i poliziotti di Como. Arrestati il comandante della polizia stradale, il vice e tre agenti, che facevano, secondo l'accusa, racconta Fabio Poletti sulla stampa. Il sospetto è venuto intanto guardando le statistiche, che gli automobilisti comaschi fossero improvvisamente diventati dei virtuosi al volante. Mai una sanzione, mai un eccesso di velocità, non ci credeva nessuno. Semplicemente era successo che i vertici della Polstrada cancellavano dai server le multe prese dagli automobilisti, girando sui propri conti correnti l'importo delle sanzioni. Quindi voi le pagavate a Como, le pagavate, ma le pagavate, secondo l'accusa tutta da dimostrare, non alle casse comunali, non allo Stato. Le pagavate e qualcuno si girava i soldi sui conti correnti. Alla fine in manette sono finiti in cinque: il comandante della stradale di Como, Patrizio Compostella, il suo vice Giampiero Pisani, altri tre agenti. Il vicecomandante è finito in carcere, tutti gli altri li domiciliari, ma con loro nel registro degli indagati anche un funzionario della questura e il capo ufficio verbale della polizia locale della città di Como in Lombardia. Cancellavano le pratiche dai database, giravano i pagamenti sui loro conti. Questa è l'accusa. Forza, adesso andate in fila, mettetevi alle poste e pagate la vostra bella multa. E sperate che vada allo Stato, nelle casse dello Stato. Oh, a proposito di macchine, arriva l'asta, siete pronti? Siete pronti? Pietro La Corte, Miriam Lucchetti, ci avete dei soldi? Guarda che bastano in alcuni casi 2.500 euro per una Lancia Tesis, oppure guardate, potrete prendere anche una Lancia K a valore 1.500 euro, forse 1.000. Sono le prime auto blu che vengono messe all'asta su eBay, come ha annunciato il Premier Renzi. Auto blu, le Maserati di La Russa su eBay. Pagina 9 del Corriere della Sera. Venghino, signori, venghino! è la famosa svolta buona annunciata da Renzi. E allora sul popolare sito di e-commerce, vale a dire eBay, compariranno presto in 6 tranche da 25 le prime macchine, le prime 25 berline dei ministeri di giustizia, interni e difesa. Ci sono anche le Maserati 139 quattro porte volute nel 2011 dall'ex ministro della difesa Ignazio La Russa, ne fece acquistare 15 a 117.000 euro ciascuna, adesso vengono via, prezzo della rivista quattro ruote, a 50.000 euro. Forza, forza, venghino signori, dai, c'è l'asta su eBay tra poco. E poi le Lancia K di interni giustizia, abbiamo detto, vengono via 1.500 euro, la Lancia Tesis diffusa un po' tra tutti i ministeri, tra i 2.500 e i 12.000 a seconda dell'anno di produzione. C'è la Volvo, una Volvo S60 del Viminale, può valere dai 3.000 ai 9.500 euro, però la seconda attualmente in produzione può raggiungere anche i 30.000. Dovrebbero essere inserite anche le BMW 525D. Vabbè, insomma, potete affrettarvi, con le offerte, con le offerte ovviamente sono soldi che si danno allo Stato. Attenzione, arrivano tra qualche giorno. Vabbè, parliamo di una cosa seria, perché ieri tra l'altro subito mi hanno mandato dei messaggi: ah, ignoranti, complottari, dovete leggere gli studi del professor Montinari. Mi riferisco alla vicenda dei vaccini e alla procura di Trani che indaga sui presunti collegamenti tra vaccini, tra alcuni vaccini per i bambini e l'insorgere dell'autismo. Una bufala che è smentita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità da anni, che è circolata per la prima volta in Gran Bretagna, è stata smentita col medico che ha fatto questa presunta ricerca scientifica, è stato poi radiato. Ecco, il ministro alla salute Lorenzin ieri si è scagliata contro alcune procure che vanno contro la scienza, generando ovviamente anche con queste teorie infondate molte preoccupazioni. Ecco, e poi le accuse, leggete gli studi del dottor Montinari, voi che lo boicottate. Pagina 13 della Stampa, la strana intesa tra il PM pugliese e il medico eretico antivaccini. È proprio lui quello che mi era citato in SMS, il medico Massimo Montinari, 56 anni, nato a Bari, studio a Firenze, titolare di un curriculum scritto in rosso e azzurro di quelli che non lascia indifferenti, gastroenterologo, pediatra, medico principale della Polizia di Stato, consulente della Legione Carabinieri Toscana, esperto di autismo con nomina all'Istituto Superiore della Sanità. Da 20 anni, scrive la Stampa, sostiene che l'autismo sia curabile con l'omeopatia. In disaccordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sostiene che la causa dell'autismo siano proprio i vaccini e sostiene che il suo protocollo sia boicottato dalla stampa imbavagliata. Ha scritto il libro Autismo, nuove terapie per migliorare e guarire. Che succede? Scrive la Stampa, per questa strana intesa, ha presentato il suo libro a Trani di recente e sul palco al suo fianco, nelle vesti di relatore, chi siedeva? Siedeva Michele Ruggero, che è il PM di Trani, che ora indaga su questi legami. Ho conosciuto il dottor Montinari in quell'occasione, spiega ora Ruggero in questo articolo di Niccolò Zancanna sulla Stampa. Non ho esposto tesi preconcette perché non le ho, ero stato invitato per parlare di colpa medica, mi sono limitato a dire che se fosse dimostrata una relazione tra vaccini e autismo avrei ritenuto opportuno un'inchiesta. Non mi sono permesso di dire in quella sede che una correlazione c'è, però parto dal presupposto che diverse sentenze del giudice del lavoro competente per i risarcimenti hanno accertato che esiste un nesso di probabile causalità. Questo è l'articolo, la strana intesa tra il PM pugliese e il medico eretico antivaccini. Uno cura l'autismo con l'omeopatia, l'altro indaga sul tema sotto l'appello del ministro Lorenzin da alcune procure, sentenze contro la scienza. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità e riprendiamo da che cosa? La politica, arriva Obama, c'è il dibattito sulla pubblica amministrazione tra poco. Alessandro Milan, il star chiappone dell'informazione! Bella rima è baciata e quindi va benissimo. Allora, viva il star chiappone! La questione delle province è il dibattito che oggi dovrebbe portare al voto del disegno di legge Delrio, la rimodulazione delle province. Ieri c'è stato sul profilo di costituzionalità 4 voti di maggioranza al Senato, per questo Renzi sta pensando di porre la fiducia. Questo è un tema che c'è su tutti i giornali e come racconta Maria Teresa Meli a pagina 3 nel retroscena, il premier va alla conta: porterò a casa il risultato, tranquilli, lo porteremo a casa. Voglio vedere chi si potrà vantare di aver lasciato sulle spalle degli italiani i costi di province del Senato. Siccome sono voti che avverranno a Palazzo Madama, a volto scoperto, ognuno dovrà metterci la faccia e prendersi le sue responsabilità. E ancora, dice ai suoi Renzi, è fisiologico quando tocchi interessi, la palude oppone resistenza. Sempre questa immagine della palude, no? Che ricorre. Non si può pensare che tagli 3.000 stipendi della politica e tutti applaudano. Noi siamo determinati ad andare avanti, del resto anche nelle scorse settimane gli uccellacci del malaugurio pensavano non ce l'avremmo fatta, che avremmo fallito, invece abbiamo portato a casa la riforma elettorale. Sono tutte cose ovviamente in fieri, perché io ho deciso appunto questo, continuo a contare, perché il tema era questo. Continuo a contare le settimane decisive per la riforma elettorale, certamente va ancora approvata al Senato, ma per l'abolizione delle province continuo a contarle se oggi c'è questa approvazione del disegno di legge Delrio oppure no. Beh, continuo a contarle perché le province rimangono, e infatti mi conforta l'articolo di Diodato Pirone a pagina 6 del Messaggero. Il titolo è la telenovela dell'abolizione tra annunci e franchi tiratori. Togliamo subito di mezzo ogni equivoco, scrive Pirone. In Senato si sta parlando di una riforma delle province, non della loro abolizione. Niente illusioni, le province restano. A dispetto di centinaia di titoli di giornali, restano lì intonsi 107 palazzi, migliaia di telefoni, segretarie, dirigenti, qualche auto blu e soprattutto 61.000 impiegati e i loro 2,3 miliardi di stipendi, oltre 38.000 euro lordi di media a testa. Non chiuderà neppure la mitica sede dell'UPI, l'Unione Italiana Province. In compenso gli italiani si scrollano dalle spalle, se non ci saranno colpi di scena, indennità e rimborsi pari a un centinaio di milioni assorbiti da circa 3.000 consiglieri provinciali. Vabbè, questo è. Quindi si può continuare a contare, secondo voi, cari italiani? Si può continuare a contare. Le province rimangono. Oggi volata finale, Renzi pensa alla fiducia. Titolo alla stampa, e tra l'altro c'è una polemica per Mario Mauro. Mario Mauro, l'ex ministro, ha tentato di sollevare questa pregiudiziale di costituzionalità del disegno di legge Delrio, intervistato oggi da Andrea Malaguti sulla stampa, pagina 5, e all'accusa «Lei è contrario all'abolizione delle province?» Mauro risponde «È disgustoso che anche solo mediaticamente possa passare un'idea così, ma io sono contro il disegno di legge perché rischia di diventare un disastro legislativo di portata enorme. Per esempio, con questo disegno di legge i dipendenti delle province passerebbero alle regioni, con un aumento dello stipendio mediamente del 15%. Non glielo vuoi dare questo aumento? E se qualcuno fa ricorso? E cosa le hanno risposto? Niente, risponde Mauro, nonostante abbia parlato con Delrio. Vabbè, il dibattito è questo. Renzi dice, twittando, cancelleremo 3.000 stipendi di consiglieri provinciali. Libero è sicuro, è la beffa delle province, costeranno più di prima. In Italia è sempre così, una polemica continua. Si era detto, ma non l'ha detto Renzi, l'hanno detto migliaia di politici prima di loro, aboliremo le province. In realtà le province non le abolirà nessuno, però qualcuno dirà che sono state abolite, qualcuno dirà di no, qualcuno dirà che costeranno di più, qualcuno dirà che costeranno di meno. Come la matematica creativa, la politica. La politica italiana è il regno della matematica creativa. Intanto l'altra polemica molto forte è quella che ha suscitato il ministro Marianna Madia, che a margine di un convegno ieri ha detto che il rinnovo della pubblica amministrazione passerà anche attraverso dei prepensionamenti delle persone che sono vicine alla pensione per far lavorare i giovani, quindi aiutare gli scivoli e i prepensionamenti di chi è al termine della vita lavorativa e per assumere dei giovani. E tra l'altro ha aggiunto anche questa frase: non è detto che ci saranno dei tavoli con i sindacati. Può anche darsi, ma non per forza. Insomma, ha rinnovato questa idea della concertazione, ma non a tutti i costi. Tanto che subito ha suscitato polemiche, i titoli sui giornali. Il sottosegretario alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti rafforza questo concetto, intervistato dal Messaggero a pagina 9 da Andrea Bassi. Dice: la Madia ha ragione, confermo, abbiamo intenzione di utilizzare sia il meccanismo degli scivoli che quello dei prepensionamenti per svecchiare la pubblica amministrazione e far entrare i giovani. Come funzioneranno? Intanto abbiamo iniziato ad applicare una norma prevista dal governo Monti che consente ai comuni con piani di esubero di effettuare prepensionamenti applicando regole precedenti alla riforma Fornero. Il primo comune a essere autorizzato a fare questo è stato il comune di Novara. In pratica, chiede il Messaggero, generalizzando 62 anni e 3 mesi con 36 di contributi invece dei 66 attuali, vale solo per Novara? Abbiamo aperto un tavolo col Ministro dell'Economia e con l'INPS per estendere l'utilizzo della norma ad altri comuni che ne stanno facendo richiesta. Quindi Rughetti conferma, si vuole svecchiare la pubblica amministrazione. Tra l'altro sulla pubblica amministrazione oggi il Sole 24 Ore fa un lungo articolo sugli stipendi pubblici, ecco tutti gli eccessi, l'articolo è di Marco Rogari e Claudio Tucci a pagina 3, tutti gli eccessi della pubblica amministrazione. Per esempio, sapete che lavorare per meno di 4.000-4.500 euro netti al mese non è possibile per i funzionari del corpo diplomatico? Ce ne siamo già occupati in una puntata con il professor Roberto Perotti. Bene, scrive il Sole, il 96,4% del personale di servizio nel corpo diplomatico guadagna più di 80.000 euro lordi l'anno. Poi ci sono gli stipendi dei magistrati, certamente tra i più alti, oppure la quasi totalità appunto dei magistrati, che in 9 casi su 10 superano questa soglia retributiva di 80.000 euro. Insomma, sul Sole, con tanto di tabella, tutti gli stipendi pubblici e tutti gli eccessi del caso sui quali il governo vuole porre rimedio. Certo, quella frase sulla concertazione, sì, ma non a tutti i costi, e quindi il tavolo con i sindacati, sì, si vedrà, ma non per forza, detto dal ministro Madia, ha forse suscitato la rabbia del graffio di Iena sulla Stampa, che oggi titola scrive a pagina 3: speravo di morire prima di vedere all'opera la ministra Madia. No, sono molto, molto caustico oggi. Iena, voglio salutare Mauro Beazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Vedo che anche oggi, ieri mi hai passato la linea, come dire, mi hai chiamato in causa, parlavi di Capieri. Oggi ho citato Iena, è un grande oggi, onore. Insomma, diciamo auguri di passaggio a miglior vita. Insomma, no, i rapporti tra di noi non sono idilliaci. No, ma lì è un autoaugurio di Riccardo Barenghi, alias Iena, sulla Stampa. Comunque, senti, non importa tanto, io voglio andare a fare il docente in una scuola della pubblica amministrazione. Oh. Hai letto Mariolina Sesto oggi sul Sole 24 Ore? No, non ancora. Ecco, le docenze d'oro, ci sono stipendi fino a 300.000 euro. Io non so cosa posso insegnare, però. Intanto ti becchi lo stipendio. Sì, una docenza per Meazza. Per favore, almeno, visto che non mi avete dato un sottosegretariato, non mi avete dato un posto da viceministro, almeno quello, insomma, se vuoi mettere una buona parola. Non so, docenza di lingua indonesiana. Ti assicuro che se mi fanno docenza in una scuola della pubblica amministrazione, e poi dicono che gli insegnanti sono pagati poco in questo paese, io, guarda, presento anche, sono disposto anche ad assoggettarmi al redditometro. Fantastico. Oggi con il Sole 24 Ore diamo un inserto, 16 pagine, per spiegare appunto l'arrivo del nuovo redditometro, cosa succede, cosa bisogna fare, come prepararsi, come anche mettersi in linea con le richieste dell'amministrazione. Quindi mi metto qui, studio, come dovresti fare anche tu, sì, caro, certo, Alessandro, certo. Ma lasciamo stare, e quindi poi posso mettermi in regola anche se vado a insegnare. Io chiedo la docenza in condominio, Ti stai preparando con il codice del condominio. No, però per 300.000 euro. Però potresti fare il sacrificio. Sacrificio si fa, capisci. Senti, volevo anche dirti che c'è una tua bella foto a pagina 21, però un po' piccolina. Oggi sul Sole 24 Ore, sì. Abbiamo... Me l'ero persa adesso. No, vai avanti. Bella foto per le ascoltatrici, soprattutto, lo segnalo, ma anche per gli ascoltatori. Ma vestito? No, sì. Mi pareva di sì, adesso sì, non sono stato a guardare proprio il dettaglio. Mi sono vestito. E volevo anche poi dirti che continuiamo le spiegazioni, questa è una cosa seria, del decreto legge sul lavoro, quindi oggi presentiamo una puntata sulle questioni dell'apprendistato e della formazione. Sono cose queste invece molto serie ed interessanti, a differenza delle così cose che ho buttato lì un po' scherzando, ma non troppo, in precedenza. Benissimo. C'è anche la delega fiscale, naturalmente, tutti i particolari per Radio Fisco sulla parte di norme tributi. Vuoi dirmi qualche cos'altro di sgradevole, come quando mi hai lanciato, auguri? No, siamo sereni. Dicono che oggi riprende il campionato, ma è mercoledì. Oggi riprende il campionato, sì. Forse. Non è detto, vediamo domani se riprende. Sentiamoci domani e vediamo se è proprio ripreso. Perché, ma forse anche dopo domani potrebbe riprendere. No. Ma forse no, è il tuo momento. No. È il tuo momento. È il mio momento, traffico. Alessandro Milan, il mandrillone dell'informazione. Fa sempre rima anche questa, rima baciata. Va bene, grandi ascoltatori, vi mando un abbraccio e che dire, in Forza Italia ogni giorno c'è l'articolo o le due pagine di articoli su quello che sta succedendo, no? Ieri Berlusconi si è arrabbiato, ha detto sono vivo e vegeto, come titola pagina 10 il Corriere. Qui di magico ci sono solo io, sapete, ci sono tutte le polemiche sul presunto cerchio magico, Francesca Pascale, l'onorevole Rossi, anche Giovanni Toti, il consigliere, che fa un'intervista al Messaggero e dice: Francesca Pascale candidata, ma no, escludo nel modo più assoluto che si riferisse alla Pascale Berlusconi quando parlava appunto di chi lo tira per la giacca. E poi la domanda: ma allora si candida la signorina Pascale? Ma andiamo, assolutamente no, così Giovanni Toti. E poi su questo presunto cerchio magico, espressione che è diventata famosa soprattutto per Bossi e per la Lega, dice Giovanni Toti: guardi, su questa storia del cerchio magico non posso che citare ciò che dice il presidente di Berlusconi, cioè che di magico in Forza Italia c'è solo lui. Vabbè, comunque ogni giorno ci sono articoli, selezioni di retroscena su quello che sono le vicissitudini all'interno di Forza Italia. Carmelo Lopapa, per esempio, su Repubblica dice che a un certo punto ieri Berlusconi è sbottato coi suoi a dire: il partito l'ho già messo in liquidazione, anzi lo chiudo, il partito lo chiudo, e questi continuano a litigare per le poltrone ma non hanno capito niente. A proposito del mondo Forza Italia, segnalo pagina 9 della Stampa, Marco Bresolini intervista Vincenzo Leli. Chi è Vincenzo Leli? È il presidente del club Forza Silvio, 15° municipio di Roma, il primo che applica il messaggio che spesso veniva messo sotto traccia, e che è questo: veterinari gratis per gli animali dei nostri iscritti, vengono qua e basta che si presentino qui e prendono la tessera, e il risparmio per fido e micio è garantito. E poi la nuova iniziativa che faremo ai nostri iscritti: dentiera a prezzo convenzionato. La gente si è allontanata dalla politica, se non ci inventiamo qualcosa per recuperarli è finita. Ed eccolo qui. Erano indiscrezioni, ma c'è la prima applicazione pratica in un club Forza Silvio. Veterinari gratis, non per gli iscritti ma per gli animali degli iscritti, e dentiere gratis e dentiere a prezzo scontato, perlomeno per gli iscritti al club Forza Silvio a Roma. Vabbè, lasciamo la politica, andiamo alla cronaca. Le cose di cronaca che mi hanno colpito sono certamente la polemica che il Fatto Quotidiano mette in prima pagina, polemica suscitata ieri anche da una lettera del Cardinal Bagnasco pubblicata da Avvenire contro alcuni libretti che devono essere distribuiti nelle scuole elementari e medie, libretti concepiti dai governi Monti e Letta e concepiti per dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali per combattere l'omofobia, ma che secondo il Cardinal Bagnasco sono documenti che invece che educare alla diversità diciamo creano confusione, l'offensiva nella cosiddetta offensiva di genere, l'offensiva gender. Oggi il Fatto Quotidiano titola in prima pagina in maniera imperiosa: Bagnasco ordina al ministro via quel libretto da scuola, libretti che distruggono il concetto di famiglia, fa sapere il Fatto Quotidiano. C'è da dire che anche Repubblica dedica una pagina a questo: no ai corsi anti-omofobia a scuola, l'ultima battaglia tra laici e cattolici, risponde in qualche modo Avvenire oggi con Lucia Bellaspiga, una pagina su questo tema: studenti a casa contro il gender, i genitori si appellano ai docenti, proteggiamo insieme la libertà. E tra l'altro c'è anche un editoriale di prima pagina di Avvenire dal titolo La sfida compresa, l'autore Gianfranco Marcelli. L'Associazione Italiana Genitori ha lanciato agli insegnanti di ogni ordine e grado di richiamare l'attenzione sul rischio gender che, come questo giornale continua a documentare, incombe sul nostro sistema educativo. Si può quindi immaginare che nei prossimi giorni l'attenzione sulla sfida lanciata dalla lobby politica lesbo, gay, bisex, trans resterà alta, come giusto che sia. E non solo per gli attacchi, le reiterate accuse di omofobia nei confronti di chi difende il diritto dei genitori di verificare, autorizzare i contenuti formativi proposti ai loro figli. Scrive ancora Avvenire: è il caso di ribadire che da parte del mondo cattolico non c'è la benché minima volontà di impedire la sacrosanta lotta a ogni forma di discriminazione o peggio ancora di bullismo e violenza nei confronti delle persone omosessuali. Ma tutto questo senza mai perdere di vista il principio di fondo in base al quale i genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, devono essere considerati come i primi e principali educatori di essa. Quali sono le frasi che fanno discutere in questi libricini? Le scrive il Fatto Quotidiano. Sono, per esempio, questa frase sui rapporti omosessuali: sono naturali? Sì, il sesso tra le persone dello stesso sesso è presente in tutta la storia dell'umanità, sin dall'antica Grecia. Oppure, un pregiudizio diffuso nei paesi di natura fortemente religiosa è che il sesso vada fatto solo per avere bambini. Ecco, queste frasi all'interno di questi libri che devono essere distribuiti a scuola, ma l'iniziativa pare sia stata sospesa, hanno suscitato la rabbia del Cardinal Bagnasco e ora la polemica che finisce sui giornali. Di altre polemiche, altre notizie di cronaca, non c'è tempo. E allora sono al momento conclusivo, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, il momento del premio La Carta Costa. Oggi vince con un'intera pagina La Stampa, che dice: anche tu, e indico Pietro La Corte, anche tu puoi diventare un grande oratore, come Pericle, come Lincoln, come John Kennedy, come Fidel Castro, come Barack Obama. Basta seguire i segreti dei TED Talk di Monterey, ora in un libro. Ma Pietro La Corte non gliene frega niente di diventare un oratore, proprio niente, l'ultima cosa al mondo che vuole fare. E peraltro nella stessa pagina della Stampa sotto c'è la ricerca: il seduttore è uno di poche parole, le donne amano le persone, gli uomini che hanno un tono alla George Clooney e parlano poco. La carta costa.